Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli, benvenuti a questo appuntamento con l'Europa d'estate per parlare qualche minuto di un tema molto delicato, un tema che ha fatto e fa discutere in Europa e nel nostro paese. Mi riferisco al tema della cittadinanza, dunque lo ius soli o ius sanguinis di cui abbiamo e parliamo di fatto quasi quotidianamente. Oggi avremo con noi Cecilia Malmström. Cecilia Malmström è una diplomatica politica svedese, commissario europeo per gli affari interni nella Commissione Barroso dal 2010. Questo all'interno dello speciale curato da Valentina Furlanetto. Ius soli o ius sanguinis? Cittadinanza perché si è nati su quel territorio oppure per diritto di sangue? L'Europa, divisa su molti temi, non è unita neppure su questo. Ogni paese va per conto proprio, anche se con la sola eccezione della Francia, che applica un rigoroso ius soli puro all'americana, quasi tutti gli altri paesi sono orientati verso uno ius sanguinis temperato, ossia una legislazione che si basi sì sul fatto che si è cittadini perché si eredita questo diritto dai genitori, ma anche che considera importanti il fatto che i genitori stranieri vivano da tempo nel territorio e che si sia andati a scuola in quello stato. Il dibattito infiamma l'Italia, ma l'Europa non ha una politica comune su questo, come spiega Cecilia Malmström, commissario europeo per gli affari interni della Commissione Barroso. Well, I follow very much the debate in Italy, and I think it's interesting. The European institutions cannot have a common view on this. It is not in Ho seguito bene il dibattito in Italia sulla proposta del ministro Chieng, dice Malmström. In realtà non può esserci al momento una posizione unitaria dell'Europa su questi temi, perché ogni paese ha le sue regole. Non è previsto nei trattati. Detto questo, il come si diventa cittadini è importante, perché fa parte e agevola il processo di integrazione. Quindi guardo con favore a ogni discussione e dialogo che si aprono su questi temi, come sta succedendo in Italia. È importante che se ne parli. Il ministro Chieng ha voluto condividere con me, quando l'ho incontrata, il suo punto di vista. Questo mi ha fatto molto piacere, ma non è proprio dell'Europa produrre una legislazione specifica su questi temi. Intanto però il neo ministro dell'integrazione, Cecil Chieng, messa da parte la discussione sullo ius soli, ha ottenuto a metà giugno modifiche alla procedura per diventare italiani, che vanno nella direzione di uno snellimento burocratico. Il punto importante è proprio questo, che si riconoscono i diritti, perché la legge parla di diritti acquisiti, che il figlio di genitori stranieri nati in Italia al compimento della maggiore età ha diritto ad acquisire la cittadinanza italiana, e questo lo dice la legge, cioè la legge del 5 febbraio del 92. E questo di fatto è un diritto. Quindi non decade anche in presenza di irregolarità amministrative che possono essere di tipo formale o non sostanziale, quindi non imputabile all'interessato e quindi riconducibile ai genitori, agli ufficiali di stato civile o anche a un altro soggetto coinvolti nel procedimento. Credo che la cosa più importante è che sia stato riconosciuto un diritto e che questo diritto deve essere riconosciuto anche di fronte ad irregolarità. Aiuta veramente un percorso di integrazione, il proseguimento di un percorso di convivenza e inserimento nel tessuto sociale sul territorio italiano, e questo procedimento aiuterà veramente tantissimi giovani, tantissimi ragazzi che in questo momento sono bloccati proprio da piccoli errori, timbro o anche irregolarità che nella discontinuità dell'iscrizione all'anagrafe, per esempio. Intanto il 12 giugno il Parlamento europeo ha approvato le norme comuni per i richiedenti asilo e regole più strette per ripristinare le frontiere interne dell'Unione. Tutto questo per rendere più omogenee le norme. Fino a quel momento un afghano che, per esempio, avesse chiesto asilo aveva una probabilità di successo che poteva variare tra l'8% e il 90% a seconda di dove in Europa avesse fatto domanda. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E naturalmente ritrovate anche questo approfondimento su radio24.it. Un saluto, a domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.